L'alba. Gabriele aveva seguito André tutto il giorno, invisibile ma presente. André rimase a dormire a casa di Silvia. Gabriele attese che i due fidanzati si addormentassero, poi come colonna di luce si piantò ai piedi del letto davanti ad André, rimase fermo finché André non si allungò supino. Allora Gabriele si aggomitolò formando una sfera che rimase sospesa all'altezza del cuore di André. André era seduto ai piedi di un albero nel bosco che si affacciava sulla spiaggia. Era già stato là. Guardava il mare illuminato dalla luce argentata della luna. La risacca delle onde. Il frinire dei grilli. La sfera di luce si distese, formando un velo luminoso sospeso su André. Dal fondo del bosco André vide avvicinarsi una figura. Alta, vestita con un abito lungo bianco, una tunica con una cintura azzurra sulla vita. André sussultò. Il principe della luna, mormorò fra sé. Il velo luminoso scese avvicinandosi al corpo addormentato di André. Il principe della luna si sedette a terra di fronte ad André. Come ti chiami? Chiese André. Gabriele. André era ipnotizzato, non riusciva a parlare. Invece quante cose voleva dirgli, quante cose voleva chiedergli. Gabriele prese una treccia di André e la fece scorrere tra le dita. André si ricordò di aver preso tra le mani la treccia di un'altra figura simile al principe della luna. Gabriele agli occhi di André era altero, misterioso. Si sentiva esaminato, scandagliato dal suo sguardo e dal suo silenzio. Gabriele si alzò in piedi. Bastò una sua occhiata che André capì che anche lui doveva alzarsi. Capì che doveva, che non poteva far altro che eseguire i suoi ordini. Camminarono sulla spiaggia. Uno accanto all'altro. Una passeggiata silenziosa quieta. Come tra due vecchi amici che si ritrovano. Poi improvvisamente Gabriele si fermò davanti ad André. «Cosa vuoi davvero?» gli domandò severo. André non seppe rispondere. «Chi vuoi essere?» domandò ancora. Gabriele avanzò verso André. «Chi vuoi davvero essere?» insistette sempre più spinoso. «Non mi incalzare così», mormorò quasi spaventato André, facendo un passo indietro. Gabriele restò fermo davanti a lui con lo sguardo indagatore. André era confuso. «Devi rinascere», gli disse infine Gabriele. André non capì. Gabriele voltò André verso il mare. André non era più sulla spiaggia ma su un'altura. Che precipitava sul mare blu che si infrangeva sugli scogli con onde calme. Gabriele lo spinse in avanti. André si tuffò. Il velo luminoso planò su André ancora addormentato, attraversandolo come uno scanner. Il tuffo fece immergere André nelle profondità del mare. Vide una città d'oro imprigionata dal ghiaccio. Vide un drago con gli occhi viola che stringeva tra gli artigli una corona. André emerse dal mare all'aria. Trovò una aurora fresca, accogliente. Tre luci come tre soli illuminavano il cielo. Le tre luci si mossero creando una formazione a triangolo. André si svegliò, aprì gli occhi su Silvia che dormiva accanto a lui.